Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Giuseppe Nardini. Due secoli di grappe. Di Vanni Truppi. Oggi parliamo della grappa. A fine pasto, chi non ha sorseggiato, almeno una volta nella vita, il distillato italiano per eccellenza? Ce ne sono di vari tipi, quella giovane, quella invecchiata, quella aromatizzata. La più antica nel nostro paese è senza dubbio la Bortolo Nardini. L'azienda, fondata negli ultimi anni del Settecento a Bassano del Grappa, è gestita dalla stessa famiglia che per oltre 200 anni ha fatto della grappa praticamente uno stile di vita e fa parte del ristretto club delle imprese familiari bicentenarie. Ad essere precisi, è dal 1779 che la grappa Nardini viene prodotta e imbottigliata a Bassano del Grappa. In quell'anno Bortolo Nardini acquista i locali dell'Osteria sul Ponte, oggi uno dei locali storici d'Italia, all'ingresso del famoso Ponte del Palladio, che poi è simbolo della cittadina. Oggi alla guida c'è Giuseppe Nardini, cavaliere del lavoro, entrato in azienda oltre mezzo secolo fa, classe 1927. Ha 82 anni, ma non li dimostra. L'azienda Nardini è un'azienda di famiglia che festeggia quest'anno i 230 anni di attività nel campo della distillazione. Siamo collocati come punto principale proprio sul ponte di Bassano, dove c'è l'antica grapperia che è rimasta intatta nel tempo e che è un po' l'immagine storica della nostra azienda. Siamo ancora tutti di famiglia, attualmente siamo ancora 5 io e 4 giovani che ce ne occupiamo. C'è sempre stato qualcuno, qualche membro della famiglia che se ne è occupato attivamente. La nascita della Nardini determinò una vera e propria rivoluzione e segnò l'inizio della distilleria moderna in Italia. Una tradizione di famiglia radicata che ha portato Giuseppe Nardini a passare tutta la sua vita in azienda. Ed oggi, quando si parla di pensione, Nardini sorride, ironico. 50 anni tra distilleria, laboratori, uffici. Il sapore è un po' quello della missione, ma Nardini preferisce parlare di ruolo sociale dell'imprenditore. Io credo che se tu metti i tuoi dipendenti a lavorare in una struttura accogliente, e fai un'opera di educazione, imparano a tenere bene le cose, imparano ad apprezzare le cose belle, lavorano meglio, imparano meglio come si può vivere, imparano meglio a gestire anche la propria vita. Dopo 200 anni e passa di grappa, Nardini ha voluto lasciare un segno della propria attività e in particolare di quel ruolo sociale dell'imprenditore a cui accennava Giuseppe Nardini, regalando al territorio un'opera particolare come le bolle di Massimiliano Fuxas. Si tratta di due ellissoidi, due edifici a forma di ellisse in vetro, realizzate con 360 pannelli sorretti da una complessa struttura d'acciaio. Per i 225 anni volevamo festeggiare la nostra data di nascita con un'opera interessante dal punto di vista architettonico. E poiché qui nello stabilimento avevamo bisogno di una zona per accogliere sempre più numerosi gruppi di turisti che vengono, e abbiamo pensato che forse questo era il momento giusto per fare un'opera di architettura contemporanea, visto che qui nella nostra zona purtroppo di architettura moderna o contemporanea non c'è niente. L'obiettivo di Nardini non era stupire, ma dare una visione di impresa diversa, di un'impresa che sappia rispettare il proprio territorio. Era un po' così negativo nei confronti degli imprenditori, perché abbiamo disseminato un po' il nostro territorio di capannoni che sono utili, che sono necessari, ma forse se ci fosse stata un po' più di programmazione, avessero fatto delle zone industriali più omogenee, raggruppando magari i comuni e a magari dotare anche le zone industriali di una parte verde, di una parte in modo di inserire meglio l'industria nell'ambiente, forse sarebbe stato molto opportuno. Allora questa era un'occasione importante. Volevamo fare qualcosa di importante, ma dimostrare che si può anche fare architettura nell'impresa. La tradizione e la passione possono essere un rimedio efficace contro la crisi economica? Secondo Giuseppe Nardini sì, La stessa azienda di famiglia nel tempo si è adattata alle condizioni economiche e ai mutamenti del mercato. È il caso, per esempio, del liquore Tagliatella, inventato dalla Nardini durante il secondo dopoguerra. I soldi erano pochi, la popolazione stava riemergendo a fatica tra macerie di un'Italia distrutta dai bombardamenti. E fu proprio in quel contesto che la Nardini decise di mettere in commercio un prodotto accessibile anche alle classi meno abbienti. La grappa e i liquori venivano serviti direttamente in giare di rame, ognuna delle quali aveva un rubinetto sotto cui stava un piccolo raccoglitore di gocce, un recipiente per intenderci. Queste gocce vennero poi raccolte in un barile e mescolate insieme, un taglio per ogni varietà di liquori. Di qui il nome Tagliatella, che nasce quindi come un modo per riutilizzare residui non altrimenti commercializzabili. Del resto, un'azienda bicentenaria ne ha viste di tutti i colori, passando tra Unità d'Italia, Prima e Seconda Guerra Mondiale, boom economici, riprese, crisi e quant'altro. E l'ottimismo gioca un ruolo determinante. Adesso, quando mi chiedono ma come va con la crisi, dico, nella nostra azienda abbiamo avuto periodi belli e periodi difficili, però io vedo che con l'impegno, con la buona volontà e con la, soprattutto anche alle volte con la modestia, senza voler essere eccessivi e strafare, si riesce a passare anche i momenti di crisi. Ci vuole sicuramente impegno e soprattutto amore per il proprio lavoro e per la propria città. La grappa, dicevamo, è un prodotto per eccellenza tutto made in Italy. Tuttavia, anche se sulle tavole di tutto il mondo i prodotti nostrani sono tra i più apprezzati, nel caso dei distillati la competizione è più difficile, secondo Giuseppe Nardini. C'è una difficoltà che ogni paese ha le sue consuetudini in fatto di bevande ed è un po' difficile, quindi i tempi sono un po' lunghi, bisogna andare attraverso la ristorazione per poter abituare i nuovi consumatori. Però c'è spazio, si può fare. L'importante è fare bene e mantenere la qualità alta, dare quel valore aggiunto che noi italiani sappiamo dare alle nostre cose. Da quando Giuseppe Nardini è entrato in azienda, si è impegnato da un lato a conservare inalterati i metodi di distillazione e la qualità del prodotto in relazione anche all'evoluzione dei gusti e dei mercati, ma dall'altro a studiare metodi di produzione in grado di soddisfare fette di mercato più ampie. Pur mantenendo l'azienda con le caratteristiche della tradizionale antica bottega, il suo metodo ha portato ad un aumento della produzione ed oggi sono circa 4 milioni le bottiglie messe in commercio. Tradizione è spesso sinonimo di qualità, ma in che modo però è possibile coniugare standard elevati con le nuove tecnologie e la necessità di mantenere inalterate le qualità di un prodotto che è così da ben 200 anni? Secondo Giuseppe Nardini, anche in questo caso c'è bisogno di passione e lavoro, perché le macchine non sono tutto. Per noi il primo imperativo è sempre stato la qualità. Ci sono aggiornamenti, cioè ci sono stati aggiornamenti anche nella ricerca della materia prima. Ci vuole molta attenzione e molta cura. La distillazione non è un segreto, ma è un lavoro di grande attenzione e di molta passione. C'è anche molto l'intervento dell'uomo, come molte cose che vengono ben fatte. Le macchine aiutano, ma se non c'è la capacità della persona, dell'uomo, le cose non si... Poi noi abbiamo un laboratorio molto efficiente, facciamo continuamente controlli, seguiamo il prodotto dalle materie prima all'imbottigliamento costantemente, perché noi dobbiamo dare qualità, ma dobbiamo dare costanza nella qualità, che questa è la cosa più importante. Il prodotto deve essere, il consumatore deve sapere che quando beve la nostra grappa sa che cosa prende. La grappa Nardini quindi è la più antica d'Italia. L'azienda, come accennato, rientra nel ristretto club delle 35 imprese nel mondo che hanno oltre 200 anni di attività. un vero e proprio primato insieme alla Nardini tra le aziende italiane che hanno superato il bicentenario e che sono nelle mani della stessa famiglia. Ci sono per esempio la Amarelli, che produce le famose liquirizie, la fabbrica d'armi Beretta, la cartiera Mantovana e i confetti Mario Pellino. Una passione che Giuseppe Nardini è sicuro di aver trasmesso anche ai suoi figli, auspicando che lo spirito di impresa familiare e la tradizione si mantengano anche in futuro. Ma io spero che i giovani abbiano assimilato questo spirito così che abbiamo di impresa gestita personalmente dalla famiglia. E, d'altra parte, vedo, noi facciamo parte anche di questa associazione internazionale che si chiama Les Zénochiens, che sono le imprese bicentenarie ancora della stessa famiglia. E adesso ci incontriamo anche con gli altri, con i francesi, con i tedeschi, e con gli altri colleghi, e questo ci fa capire che c'è un po' lo stesso spirito nelle imprese familiari, c'è lo stesso spirito un po' che c'è nella nostra. E la tradizione può essere un peso alle volte, però è anche un grande stimolo ad andare avanti. Siamo pochi, sì, perché siamo 35, quindi non siamo moltissimi. Ci sono dei giapponesi, dei tedeschi, degli inglesi, soprattutto però siamo più numerosi i francesi e italiani. Siamo pochi, 200 anni di attività della stessa famiglia sono tanti effettivamente. Però ho trovato in tutti lo stesso spirito così di coesione e di voglia di continuare. I Nardini sul ponte di Bassano dal 1779 hanno visto due secoli di dominazioni e battaglie passare sotto gli occhi, subendo l'occupazione per esempio di austriaci e francesi. La facciata della grapperia porta ancora i segni delle palle dei cannoni napoleonici ed una lapide ricorda Ferdinando, arciduca d'Austria, sempre inseguito, spesso sconfitto, recita la lapide con forse una involontaria ironia. Il ponte è stato la nostra gioia e il nostro dolore, dice Giuseppe Nardini. Tutte le battaglie sono finite qui. I nostri nonni hanno vissuto la disfatta di Caporetto, afferma ancora. I nostri padri, l'invasione tedesca, e riuscirono a stento a salvare i vecchi macchinari murandoli in una stanza segreta. Tradizione e innovazione. Oltre al tributo all'architettura contemporanea con le bolle di Fuxas, la Grappa Nardini non ha rinunciato ad una campagna di comunicazione al passo con i tempi. L'azienda bicentenaria infatti ha sì un sito internet, ma anche creato un club di affezionati sul social network Facebook, che pensate conta oltre 2.300 iscritti. Ed è tutto per questo appuntamento con Voci di Impresa. In regia Alessandro Chiappini, da Vanni Truppi l'augurio di una buona giornata.